Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. È uno dei temi più gettonati da qualche giorno dai nostri ascoltatori / investitori. Parliamo dell'aumento di capitale di Enel. È un'operazione enorme da 8 miliardi con la quale il gruppo mira a raccogliere risorse fresche per fronteggiare la crisi e per proseguire la sua politica di investimenti. L'invito alla sottoscrizione è già stato rivolto agli azionisti del gruppo e probabilmente per tutti gli interessati vi è arrivata una comunicazione da parte del vostro intermediario, da parte della banca. In questi giorni molti ci hanno scritto chiedendoci di organizzare una trasmissione sull'argomento proprio per spiegare le modalità dell'operazione. Noi ci vogliamo mettere insieme, oltre a questo, anche dell'altro, perché Enel non è l'unica società che tenta di raccogliere nuovo capitale sul mercato. In queste settimane molti i gruppi che hanno annunciato operazioni straordinarie oppure società che ne hanno portate a termine o al momento solo appunto annunciate. Vi dicevo, ci sono gli aumenti di capitale, ci sono emissioni di obbligazioni che sono già state fatte o che sono in vista. Molte obbligazioni bancarie sono state emesse per esempio di recente, mentre altri grandi gruppi emetteranno dei maxi bond prossimamente. Per esempio a metà giugno, in vista quello di Eni, Enel ne emetterà altre l'anno prossimo, secondo quello che è possibile, che è stato possibile apprendere fino a questo momento. In settembre sul mercato obbligazionario sbarcherà di nuovo Telecom per i piccoli risparmiatori. Insomma, c'è molta carne al fuoco della quale discutere questa mattina, ma vogliamo appunto, come vi dicevo, partire dall'operazione Enel per cercare di spiegare ai nostri ascoltatori come si può valutare la convenienza di dell'adesione ad un'operazione di questo tipo. Tra l'altro teniamo conto che Enel è la società quotata italiana con il maggior numero di piccoli azionisti, 1.300.000 azionisti retail praticamente rappresentano il 30% del capitale. E allora, se siete interessati all'argomento, questa mattina ci potete chiamare all'800 24 00 24, ci potete scrivere al 349 238 6666. I nostri interlocutori: Nicolò Nunziata, strategist per il settore azionario di JC e Associati. Nunziata, buongiorno. Grazie di essere di nuovo con noi. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. E buongiorno anche ad Antonio Tognoli, vicepresidente dell'AIAF, l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari. Tognoli, eccoci di nuovo anche con lei. Buongiorno. L'ultima volta l'avevamo invitata per spiegare l'operazione General Motors, era stata una trasmissione un po' ridotta per modifiche di palinsesto, per cui abbiamo rimediato oggi con Tognoli, ma molto volentieri ovviamente, anche perché insomma è una persona molto preparata su questi argomenti, per cui ci aiuterà a capire e poi in termini concreti che cosa vuol dire un aumento di capitale e soprattutto qual è anche il senso di questa grande operazione che è partita il primo giugno, quella di Enel per l'appunto. I numeri ve li ho ricordati e visto che come sempre con i numeri noi a Salva Danaio abbiamo a che fare, andiamo un po' a vedere i numeri di borsa di questa mattina. La giornata è abbastanza negativa tra listini del vecchio continente, un po' perché siamo reduci da un periodo invece piuttosto favorevole per il mercato azionario. Ieri Wall Street ha chiuso la quarta seduta consecutiva con i listini con il segno positivo, grazie anche a questa statistica sul mercato immobiliare che ha colto inaspettatamente i favori del mercato, il dato sulle vendite di case esistenti. Però ecco, l'Europa stamattina non risponde altrettanto bene, perché lo avete sentito nel giornale radio, c'è anche il dato sul prodotto interno lordo del primo trimestre dell'Eurozona, -2,5%, un dato molto pesante che stamattina permette agli investitori di prendere profitto dei guadagni recenti. Parigi -1,34%, Francoforte -0,76%, la peggior piazza è Londra, perde 2 punti, Milano, FTSE MIB -0,95%, quali titoli stanno permettendo a Milano di non perdere di più? Fondiaria +2,60%, Impregilo +1,88%, Buzzi +1,11%, una buona giornata per il settore del cemento. Il settore bancario va su strade differenti, il titolo migliore è Unicredit, guadagna l'1,30%, si sta riavvicinando di nuovo ai 2 euro, non ci riesce, 1,94 euro. Il gruppo ha avuto una promozione di giudizio da parte di una casa di investimento, da parte di Morgan Stanley. Gli altri titoli con il segno più sono Mediaset +1%, Parmalat +0,28%, mentre sta peggiorando la sua giornata STM -4 punti. Abbiamo poi Pirelli che perde il 3,75%, ma questo gruppo aveva corso tanto di recente, per cui oggi lo stop, l'arresto è anche abbastanza, non l'arresto con le manette naturalmente, ma insomma il freno è abbastanza fisiologico. Saipem meno 3,42, petroliferi oggi che vanno su strade differenti nonostante il petrolio si continui a mantenere su livelli piuttosto alti, siamo ancora a $68 al barile. Tenaris meno 2,38, Banco Popolare meno 2,37, meno 2 anche per Mediobanca, per Bulgari, per Prismian e per Enel che perde appunto 2 punti percentuali a 3,70 euro. Euro in rapporto al dollaro 1,42,33, stamattina l'euro si era riportato sopra 1,43 sul dollaro, adesso il dollaro recupera qualcosa, ma insomma abbiamo ancora un euro piuttosto deciso da qualche tempo a questa parte verso il biglietto verde. Lasciamo la borsa, in borsa rimaniamo questa mattina, ma perché prendiamo una grande società quotata che ha lanciato un importante aumento di capitale, parliamo di Enel, sentiamo in che cosa consiste questa operazione. Bussare al pubblico dei piccoli risparmiatori e racimolare capitale. Sembra essere questa la principale missione di banche e società dopo lo tsunami finanziario che ha mandato in fumo miliardi di euro di capitalizzazioni. E dopo le maxi emissioni di obbligazioni societarie, collocate in tutto il mondo per 727 miliardi di dollari fino a metà maggio, è ora il turno delle ricapitalizzazioni attraverso l'emissione di nuove azioni sul mercato. Da Unicredit, che a febbraio ha dato il via libera a un aumento da 3 miliardi di euro, a JP Morgan, che proprio ieri ne ha portato a termine uno da 5 miliardi di dollari, passando per Morgan Stanley, 2,2 miliardi, e Danone, che nei giorni scorsi ha annunciato una ricapitalizzazione da circa 3 miliardi. Rivolgersi a grandi e piccoli investitori e battere cassa è dunque una strategia sempre più adottata, sia per ridurre i debiti che per rafforzare la struttura finanziaria di sempre più società. Ultima in ordine di tempo è stata Enel, che ha chiamato a raccolta il pubblico retail per rifinanziare una parte del debito attraverso un maxi aumento di capitale da 8 miliardi di euro, che ha preso il via proprio 2 giorni fa. Un aumento che avverrà tramite l'emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti Enel in proporzione al numero di azioni possedute. 1.300.000 risparmiatori italiani potenzialmente coinvolti, i quali avranno tempo fino al 19 giugno per esercitare i diritti di opzione, che potranno essere negoziati fino al 12 giugno. Enel ha fissato un prezzo unitario di sottoscrizione pari a 2,48 euro, ieri il titolo ha chiuso a 3,77 euro, e un rapporto di assegnazione pari a 13 nuove azioni ogni 25 possedute. Aumenti di capitale dunque, ma non solo. È atteso infatti per il 15 giugno il lancio del primo bond retail da 1,5 miliardi targato Eni, mentre Telecom scalda i motori per settembre. L'anno prossimo invece sarà la stessa Enel, una volta chiuso l'aumento, a chiamare a raccolta ancora una volta il pubblico indistinto per rifinanziare una parte del debito. E c'è da scommettere che i tre big di Piazza Affari non saranno i soli ad adottare questa strategia. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Io sto già così sondando un po' fra le domande che ci stanno cominciando ad arrivare da parte dei nostri ascoltatori, che molto banalmente, essendo degli azionisti, ci chiedono come ci dobbiamo regolare, dobbiamo sottoscrivere o no l'aumento di capitale. Io vi premetto già che da noi non riceverete in termini assoluti un'indicazione di questo tipo. Noi cerchiamo di spiegarvi l'operazione, cerchiamo di spiegarvi i motivi per cui Enel la fa, cerchiamo di stamattina di spiegarvi le tecnicalità per quanto possibile, perché anch'io, Antonio Tognoli, lo so, ci ho fatto una chiacchierata questa mattina, più di tanto non riesco a capire poi come funziona, per cui ecco, il nostro compito è di come dire, essere molto chiari su questi punti. Quanta la convenienza di fare un investimento o meno, permetteteci di fare un passo indietro, quindi noi cerchiamo di darvi gli strumenti per capire se sulla base delle vostre esigenze è il caso di farlo o meno. Quindi comunque microfoni aperti lo stesso per voi, chiamateci lo stesso all'800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666. Comincerei però con Nicolò Nunziata, JC e associati. Io prima di tutto vorrei così spiegare in termini molto semplici ai nostri ascoltatori, non facciamo altro che parlare di queste operazioni straordinarie che le società sono costrette, tra virgolette, a mettere in campo per ricapitalizzarsi, per ripatrimonializzarsi. Esattamente che cos'è un aumento di capitale, Nunziata? Un aumento di capitale è la richiesta al mercato di capitale proprio, quindi è un modo per, diciamo che le ragioni di un aumento di capitale possono essere diverse, perché possono andare come in questo caso e come è stato nel 2003, nel periodo diciamo dal 2002 al 2004, per riequilibrare la propria struttura patrimoniale, ovvero il rapporto tra capitale proprio e debito, oppure per fare nuovi investimenti. E diciamo che una vecchia legge di borsa dice che un aumento di capitale generalmente va seguito, va sottoscritto. Qui però io mi riallaccio a quello che lei ha detto prima, e cioè che è il momento migliore per l'investitore di andare a vedere le prerogative per le quali era entrato nell'investimento, cioè se le motivazioni iniziali per le quali si era investito in Enel in questo caso sono ancora valide, e in quel caso decidere o meno se sottoscrivere. Riequilibrare il debito, diceva lei, oppure proseguire appunto nella politica degli investimenti. Enel fa questa operazione per rispondere ad entrambe le esigenze. Sì, perché Enel ha acquisito Endesa, una parte degli asset di Endesa, perché poi successivamente ne ha ceduto una parte, e quindi sono anche cambiate le condizioni di mercato per ritornare in linea con il settore, diciamo con i principali competitor nei cosiddetti ratio di debito. Enel procede con questo aumento, che è assolutamente corretto da un punto di vista strategico. Ecco, gli aumenti di capitale, qui vado ad Antonio Tognoli, vicepresidente dell'AIAF, possono essere di tipo diverso, perché possono essere per esempio esclusivamente riservati ad investitori istituzionali, possono essere invece rivolti al pubblico indistinto. Qui tutti gli azionisti di Enel sono chiamati a raccolta, Tognoli, giusto? Visto che di raccolta dei capitali freschi stiamo parlando. Certo, sì. Beh, certo, qui sono tutti chiamati a sottoscrivere l'aumento, anche se poi nel comunicato comunque la Cassa Depositi e Prestiti ha fatto sapere che comunque cederà, si legge nel comunicato appunto, essendo la seconda parte subordinata alla cessione da parte del Ministero dei Trasporti, del Ministero, dei diritti di opzione ai sospettanti. Quindi sostanzialmente la Cassa Depositi e Prestiti mi sembra di capire che non sottoscriverà la sua quota, ma questo voglio dire non è un problema di fatto che la Cassa Depositi e Prestiti non crede in Enel, ovviamente è un altro tipo di discorso. Di discorso, certo. Noi ci atteniamo questa mattina invece alle decisioni che eventualmente dovranno prendere i piccoli risparmiatori. Lo dicevamo prima, sono tanti, perché Enel è la società quotata italiana con il maggior numero di piccoli azionisti. Allora, guardate, vi faccio subito sentire, lo dico a Annunziata e Tognoli, una considerazione di un primo ascoltatore che ha qualche perplessità sui tempi con cui questo aumento di capitale viene fatto. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Qual è la sua perplessità? La mia perplessità è questa, che io mi sembra che una volta facevano degli aumenti di capitale lasciando un po' di spazio, un po' di tempo, anche perché questo aumento di capitale mi sembra abbastanza oneroso tutto sommato. Adesso qui ho lettera del signor Conti di Enel che mi scrive, è un pubblicità martellante, però tutto sommato è una settimana per decidere entri in banca entro il 9, a parte che moltissime banche manderanno la comunicazione dopo il 9. Tranquillissimamente, perché dall'esperienza che ho prima di 10 giorni non arriva, considerando poi anche le nostre poste. Ma io dico, la Consob, che ha guardato il prospetto, ha guardato tutto, cosa ci sta a fare? Non poteva dire, invece di fare questi tempi ristretti, ripeto, perché bisogna anche predisporre, diciamo, le risorse. Infatti, finanziarie. Certo, Alessandro, no, io volevo solamente dirle, adesso non voglio interromperla, la faccio naturalmente concludere l'invito di Enel. Anch'io ho davanti a me la sintesi del prospetto informativo che è pubblicata da tutti i giornali in questi giorni. Enel invita l'azionista a recarsi in banca entro il 9 giugno, poi c'è la possibilità di esercitare diritti di opzione entro il 19 giugno, forse c'è questo lasso di tempo per poter permettere proprio una riflessione, Alessandro. Però lei dice, nonostante questo, è poco tempo. Sì, Alessandro. 9 e 10 massimo, dopodiché lei glieli vendono completamente, e quindi va, c'è un massacro, perché la differenza tra il diritto opzione e il livello teorico e l'azione è un 10% circa. Allora, lei è molto ben preparato, sentiamo cosa ne pensano i nostri esperti. Per un'operazione di questo tipo, annunziata, ha ragione l'ascoltatore, forse il tempo dato agli azionisti per poter decidere è effettivamente poco, oppure i tempi sono sempre questi, a prescindere dall'entità dell'aumento di capitale? Come funziona? No. Direi che i tempi sono variabili, ma questa è un po' una... diciamo che anche negli Stati Uniti gli ultimi aumenti o le ultime ristrutturazioni hanno avuto tempi molto brevi. Pensate a GM, una delle ragioni per cui poi non è andata in porto la conversione, o poi perlomeno forse ne andrà in parte successivamente in porto, diciamo ne andrà in porto una parte successivamente, proprio per i tempi estremamente ristretti, perché quando tu hai una elevata frammentizzazione degli azionisti o degli obbligazionisti, avere dei tempi più ampi è sicuramente garantisce una maggiore sicurezza. All'arrivo anche delle comunicazioni, allora Alessandro, che può anche essere ritardato rispetto ai tempi che invece l'offerta ha fissato. Certo, alcune banche richiedono l'adesione un giorno o due giorni prima del termine, diciamo, tecnicamente... fissato insomma per la chiusura. Esatto. Quindi rispetto al 19 giugno, per esempio, le banche qua, nel caso di Enel, chiedono però il 9 giugno, mi sembrano 10 giorni di tempo, un po' tanti effettivamente. Diciamo dipende da banca a banca, ecco, ci sono alcune che permettono di arrivare fino proprio all'ultimo orario accettabile per l'operazione, ed altre che invece richiedono un giorno o due di anticipo, quindi mi sembrano obiettivamente tempi abbastanza ristretti, non so, però probabilmente Antonio sì, sentiamo Tognoli insomma sui tempi, qual è il suo ragionamento e anche cosa si può dire a questo punto agli azionisti. Beh, hanno ragione, devo decidere in tempi stretti, magari qualcuno ha anche una bella fettina di investimento, sicuramente se si aderisce all'aumento di capitale si devono sborsare un po' di soldini. Tognoli. Sì, soprattutto quello, nel senso che ovviamente i giorni sono abbastanza pochi, ma non tanto per decidere, perché 10 giorni sono sufficienti per decidere, ma il problema è che ovviamente uno se comunque ha un po' di azioni Enel, ma indipendentemente da quelle che ha, ovviamente gli altri capitali che gli servono per sottoscrivere li avrà destinati a qualche altro tipo di investimenti. Certo, magari non è così tutto liquido. Esatto, la liquidità. I tempi tecnici prima che ti arrivi la comunicazione, i tempi tecnici per rispondere, ovviamente con le poste, quindi probabilmente sarebbe stato meglio almeno un mesetto o 30 giorni, ma lavorativi però, quindi sì, sicuramente sono d'accordo, sono abbastanza stretti i tempi. Sì, perché il 9 giugno tra l'altro è martedì prossimo, per cui abbiamo un fine settimana di mezzo. Allora, tra l'altro adesso le tecnicalità, dicevamo, come si fa a dire sì all'aumento di capitale, quindi che cosa vuol dire esercitare il diritto di opzione, perché questo davvero, io lo ammetto, è un altro terreno nel quale mi perdo, ma Alessandro diceva, ma insomma se a qualcuno di noi non viene raggiunto dalla comunicazione, Tognoli, in automatico in banca che cosa succede rispetto a questa prospettiva che c'era stata data, a questa opportunità che c'era stata data? In automatico l'ultimo giorno di trattazione la banca vende i diritti ovviamente al miglior offerente, quindi la persona che comunque non ha fatto in tempo ad arrivare, non vuole sottoscrivere quant'altro, prende il ricavato relativo alla vendita dei diritti al miglior offerente, quindi non ha in alcun modo possibilità di negoziare un prezzo, posto che abbia voluto comunque vendere i diritti. Allora, insomma, per capire tra l'altro questo meccanismo dobbiamo ben spiegare adesso come funziona allora l'aumento di capitale, come funziona l'adesione e come funziona l'esercizio dei diritti di opzione. Per farlo, lo cominciamo a fare, per farlo bene, nella seconda parte di Salva Danaio, e prenderò a riferimento la domanda di Giovanni da Firenze che ci chiama. Pronto? Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Senta, io ho prenotato, comunque senta, l'aumento di capitale, se uno legge il Sole, da mesi che se ne parla. Quello è vero, Giovanni. Guardi, io lo volevo dire, però magari non era stato dato, come dire, proprio l'arco di tempo nel quale il gruppo l'avrebbe fatto, no? Perché chiaramente c'è una Consob che deve approvare il prospetto informativo, dopodiché una volta che c'è il via libera della Consob, la Consob poteva anche decidere fra un tot di tempo, un'altra settimana. Però Giovanni, sì. Io venerdì ho fissato alle poste di Sesto Fiorentino per l'aumento di capitale. Io volevo sapere questo, siccome ho 1000 quote dell'Enel e me ne toccano 640, io posso richiederne ora già dopo domani 1000, altre 1000 invece di 640? Allora, aspetti lì, Giovanni, faccio prendere nota a Nicola Nunziata e ad Antonio Tognoli. Ci metto anche Mauro da Brescia, va, così almeno da queste due domande partiamo nella seconda parte di Salvadanaio. Mauro? Sì, buongiorno. Ci dica. Ai suoi ospiti. Senta, io volevo chiedere se era più conveniente i prezzi attuali acquistare direttamente i diritti d'opzione, quindi quando saranno sul mercato, oppure caricarmi di altre azioni Enel per aver diritto ad ulteriore assegnazione. Allora Mauro, ovviamente qui facciamo fare un puro calcolo di convenienza finanziaria, poi chiaramente la sua scelta non la prende, cioè speriamo insomma che non passi questo come un suggerimento all'investimento e speriamo di salvarci anche da questa mattina, perché mai vorrei che passasse questo messaggio da Salvadanaio. Allora, questa mattina Salvadanaio si è andato a cacciare in un bel tema, nel senso che comunque è un tema che interessa moltissime persone nel nostro paese, perché in Italia abbiamo 1.300.000 azionisti retail di Enel che adesso si stanno chiedendo che cosa fare, aderire o no all'aumento di capitale, perché la banca li sta invitando appunto a prendere in considerazione questa operazione. In realtà è Enel che li sta invitando a fare questo appunto attraverso una comunicazione ovviamente che passa dall'intermediario finanziario. Allora, stamattina ci stanno aiutando a capirci qualcosa in più Nicola Nunziata, JC Associati, Antonio Tognoli, vicepresidente dell'Associazione degli Analisti Finanziari. Siamo rimasti a due domande di due ascoltatori. Giovanni da Firenze ci ha chiesto, io ho già 1.000 quote di Enel e in base ovviamente alla proposta dell'aumento di capitale me ne dovrebbero essere assegnate teoricamente 640 di nuovi. Il diritto di godimento sarà a partire tra l'altro dal 1 gennaio del prossimo anno, e allora lui, siccome non si accontenta, vorrebbe qualcosa in più. Antonio Tognoli, si ricorda la domanda di Giovanni? Certo, sì, mi ricordo. E quindi che cosa gli si può teoricamente, no, gli si può rispondere? Lui dice insomma io posso, una volta, anche non so se nel mezzo dell'aumento di capitale, sottoscrivere nuove azioni. Allora, se la domanda è io ho 1.000 azioni, me ne spettano 640, quindi ne avrò 1.640, ne voglio comprare altre 1.000, quindi alla fine ne avrò 2.640, posso comprarle o me ne danno altre? Allora, con questo aumento gliene danno 640. Punto. Infatti, forse lui voleva sapere se ne può comprare 1.000 per aderire contestualmente all'aumento di capitale anche per le nuove 1.000, ma non credo che si possa fare tutto questo. No, può fare due cose. Se lui vuole ulteriori 1.000 azioni, allora deve comprare attualmente, prima dell'aumento di capitale, tante azioni prima dell'aumento che gli consentano di arrivare a 1.000 posto. Ma l'aumento di capitale è già partito il 1 giugno, per cui secondo lei può farlo lo stesso? Appunto, quindi non può farlo. A questo punto deve comprare tanti diritti sul mercato che gli consentano di arrivare a nuove 1.000 azioni. Ovviamente il diritto è un diritto quotato, quindi c'è un prezzo denaro e lettera, quindi... Ecco, tra l'altro, proprio visto che lei mi ha introdotto il tema dei diritti, concretamente che cosa succede in questo momento? Allora, la banca mi invia la comunicazione con la quale mi invita a prendere in considerazione l'ipotesi di aderire all'aumento di capitale Enel, cioè mi dice: guarda, tu hai un tot di azioni, in base a questa operazione te ne posso assegnare altre, quindi mi dà l'opportunità di esercitare il cosiddetto diritto di opzione. Questo che io devo decidere in questo momento, giusto? Esatto. Io posso o esercitare il diritto d'opzione, in questo caso dovrò sborsare 2,48 euro, supponiamo il caso di prima, per ciascuna delle 640 azioni che mi spettano, oppure potrò vendere i diritti e quindi non sborsare un euro, ovviamente non avrò le 640 azioni, esatto, rimarrò con le mie 1.000 azioni in mano più il ricavato dalla vendita dei diritti. Brevissimo, brevissimo, lo so che lei è bravo, nel senso che mi ha anche permesso in questo modo di rispondere ad un altro ascoltatore, Morgan, che ci chiede: se non si aderisce, che fine fanno le vecchie azioni? Assolutamente, rimaniamo titolari del vecchio investimento, non cambia nulla. Delle 1.000 azioni, certo. Infatti. Allora, Nicolò Nunziata diceva, citava questo prezzo, Tognoli, 2,48 euro, che è il prezzo che Enel ha fissato di sottoscrizione appunto dell'aumento di capitale. Perché è così diverso rispetto alle quotazioni di Enel attuali, ma anche quelle dei giorni scorsi, quando poi il prezzo appunto per l'aumento di capitale è stato fissato? Diciamo che solitamente le società richiedono un prezzo sensibilmente più basso del prezzo di mercato del momento per invogliare gli azionisti, diciamo è una sorta di premio, che chiamiamolo così, per gli azionisti. acquisti. C'è ovviamente un effetto dilutivo, perché più basso è il prezzo, più deve essere elevato il numero di azioni di nuova emissione per arrivare a quello che è l'importo che la società desidera per diciamo riequilibrare in questo caso la propria situazione patrimoniale. Quindi diciamo è una sorta di equilibrio tra proporre un prezzo che con ogni probabilità potrà essere soddisfatto in termini di aumento di capitale e non diluire eccessivamente la società in termini di nuovo numero di azioni dopo l'aumento. C'era Mauro da Brescia, mi ricordo, tra l'altro, al quale non abbiamo ancora risposto, era intervenuto subito dopo Giovanni di Firenze. E Mauro, io presumo peraltro che non sia attualmente un azionista alla luce, diciamo, della domanda che ha fatto, perché lui chiedeva se è più conveniente in questa fase acquistare diritti di opzione o acquistare azioni Nunziata. Come si fa a fare una valutazione di convenienza di un'alternativa rispetto ad un'alternativa come questa? Bisogna semplicemente, uno sa qual è il prezzo di conversione del diritto e rapportarlo a quello che è il prezzo di mercato. Molto banalmente andare a vedere qual è l'esborso. Se io oggi compro 1000 azioni Eni o un'azione Eni, la stessa cosa, al prezzo di mercato poniamo a 3,70 euro. Vado a vedere se io compro 1000 diritti sul mercato oggi quanto vado a spendere, aggiungendo il prezzo del diritto ovviamente al prezzo di 2,48. Di 2,48. Tra l'altro, Tognoli, se non mi sbaglio, lei si è fatto un calcolo del prezzo di conversione del diritto? Sì, sì, io ho fatto un calcolo a 3,77, giusto per dire, integrare un po' quello che diceva il collega Nicolò. Facciamo il caso concreto: il diritto a 3,77 dovrebbe quotare, il diritto teorico, perché chiaramente poi abbiamo detto che il diritto è quotato, quindi c'è un denaro per chi compra, una lettera per chi vende, no? Quindi il diritto teorico dovrebbe essere 0,445. Ora, che cosa si può fare? Uno dice: bene, io voglio diventare azionista Enel comprando i diritti e non comprando direttamente le azioni. Allora, per avere 13 azioni, quanto devo sborsare? Bene, devo sborsare 0,445 per 25 diritti, ok? Che sarebbero le 25 teoricamente azioni, esatto, vecchie possedute, sì. Esatto, più che cosa? Più 13 azioni che mi danno 2,48. Però, Questa somma diviso 13 è il mio prezzo al quale io diventerò azionista Enel. Eh sì, insomma, adesso io ovviamente non mi ci imbarco neanche a ripetere di nuovo il ragionamento che mentre Tognoli me lo spiegava lo stavo seguendo, però è anche un po' complicato per un piccolo azionista fare un calcolo di questo tipo. Il presupposto dal quale possiamo ripartire, Nunziata, è perché in passato abbiamo deciso di fare gli azionisti di Enel, quindi adesso dovrebbe muoverci lo stesso a prescindere dalle condizioni dell'aumento di capitale, dovrebbe muoverci lo stesso obiettivo, no? Esattamente, direi vale questo principio. Vale questo principio. Riccardo da Palermo, buongiorno. Buongiorno, ma io in parte ho avuto già la risposta con quella di Morgan. Sì. Che volevo sapere che fine facevano le azioni possedute. Nessuna fine, Riccardo, ci mancherebbe. No, dico che se venivano tramutate o cambiate in qualche maniera. E volevo sapere, così in linea di principio, un aumento di capitale cosa comporta? Un abbassamento o un aumento delle quotazioni medie del titolo? Ma Riccardo, sa, non è l'aumento di capitale che incide sulle quotazioni, poi ci sono degli aggiustamenti tecnici, bisogna vedere come viene staccato il dividendo, quanto, però mediamente dipende anche il tipo di accoglienza che il mercato fa ad un annuncio di questo tipo. Nunziata, magari riparto da lei. Generalmente quando una società si trova in difficoltà finanziaria, non è il caso di Enel, perché qua i presupposti dell'aumento di capitale li abbiamo spiegati, la richiesta di altri soldi al mercato viene colta appunto non troppo positivamente, no? Questo è stato un caso diverso, mi sembra che dopo l'annuncio comunque le quotazioni siano rimaste abbastanza stabili. È legittima comunque la paura, il timore, così, la perplessità di Riccardo? Ma diciamo che normalmente si va a vendere prima, nel senso il mercato agisce sui rumors, poi quando i rumors sono diventati notizia, diciamo teoricamente già tutto scontato, quindi il mercato va mediamente a vendere prima solamente sui rumors di un aumento di mercato. Questo perché? Perché ovviamente nel momento stesso in cui si collocano nuove azioni c'è pressione sulle azioni della società. Poi però successivamente ci sono altri ragionamenti che sono poi i ragionamenti e l'analisi sulla società, sulle sue prospettive, sui suoi multipli e soprattutto sui suoi competitori, quindi si va a vedere se una società è com'è rapportata in termini relativi al suo comparto di appartenenza, se conviene o meno comprare le azioni ad un determinato prezzo. Quindi direi ci sono tantissimi casi invece dove proprio la struttura patrimoniale debole era il motivo della debolezza delle azioni di una società, nel momento stesso in cui viene fatto l'aumento di capitale comincia poi il rialzo, quindi varia da caso a caso. No, stavo intanto leggendo anche altre domande. Roberto ci chiede: ma io voglio comprare i diritti di Enel, da che data, se voglio comprare i diritti di Enel, da che data, entro dopo il 9 potrei comprarli e conviene l'operazione? Allora, diciamo che la data del 9 giugno, Tognoli, se mi vuole riaiutare lei di nuovo, è fissata per coloro che sono già azionisti, che sono stati interpellati dall'intermediario per sollecitarli, per chiedere loro se vogliono aderire o meno all'aumento. Quanto ai diritti di opzione, sono negoziabili fino al 12? Sì. E questa invece è la data che riguarda magari chi non è azionista e vuole solamente acquistare i diritti? Sì, anche però bisogna stare molto attenti perché ciascuna banca ha delle date diverse in funzione della propria struttura. Io mi attengo al prospetto di Enel che ho sotto gli occhi, per cui diciamo magari manteniamoci su queste date istituzionali, certo, chiamiamole così. Anche questo senz'altro, ma ripeto, ciascuna banca avendo una struttura e quindi dei tempi di reazione tecnici diversi, magari qualcuna ti chiede no, fammi avere entro l'8, qualcuno dice no, va bene anche il 9, quindi, o magari il 10, quindi bisogna veramente chiamare la banca e dire io voglio fare questo, entro quando ti devo dare risposta. Ecco, e questo vale sia per i già azionisti che quindi devono, esatto, devono conferire il mandato, passatemelo così, di esercitare il diritto di opzione, ecco, oppure per chi non lo è e che invece vuole acquistare i diritti. C'è un'altra domanda, no, ma visto che sono già le 12:44 abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, chiaramente ci saranno tanti diritti, come dire, in gergo si dicono inoptati, no? Quindi l'esercizio non è stato, il diritto di opzione non viene esercitato. Che cosa succede allora in quel caso? Ascoltatori preparatissimi sull'aumento di capitale di Enel, non vi dico che cosa non ci stanno scrivendo, anche Marco ci ha inviato una lunga mail nel quale ci spiega come tecnicamente si ottiene il valore dei diritti di opzione, il cosiddetto TERP, sul quale c'eravamo a lungo dibattute ieri con la mia collaboratrice, con Gaia Romani, uscendone a pezzi da questa discussione, però poi dopo tutto un ragionamento tecnico, del quale lo ringrazio, Marco ci spiega anche che abbiamo fatto un conteggio sbagliato, in realtà partendo dalla considerazione di Giovanni da Firenze, che aveva raccontato di aver già un portafoglio di 1000 azioni euro in base all'aumento di capitale, lo aveva calcolato che ne sarebbero state conferite aderendo all'aumento di capitale 640 nuovi, in realtà sono 520 in base appunto al rapporto fissato per questo aumento di capitale. Detto questo, io ritornerei ai nostri due ospiti, a Nicolò Nunziata e Antonio Tognoli, con la domanda di Daniele da Napoli. Daniele, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare prima una premessa, nel senso che volevo capire l'aumento di capitale, sì, ed è una domanda che volevo rivolgere, se serve a chi ha il controllo della società per blindarla un attimino invece di aprirsi a possibili scalate. Quindi diciamo che il piccolo azionista in questo non è che ha dei grossi vantaggi. Il secondo, appunto, perché siccome sono un piccolo azionista da una vita, cioè dagli aumenti di capitale ne ho avuto tra virgolette solo svantaggi, nel senso minusvalenze non volute e quant'altro. Daniele, allora, un'ultima sì, domanda: perché poi una volta che uno aderisce le azioni gli vengono date? Il risparmiatore ha 10-15 giorni per riflettere e poi 8 giorni, 9 giorni, 10 giorni solo per avere assegnate le azioni per eventualmente venderle. Nel frattempo non c'è una sospensione del titolo che fluttua liberamente con un prezzo acquistato. Qui Daniele dovremmo fare tutta un'intera puntata adesso a prescindere da Enel, su proprio tutte le modalità di funzionamento degli aumenti di capitale. Dobbiamo prendere questa mattina comunque per quello, come dire, la questione per quello che abbiamo, la normativa prevede questo, evidentemente i tempi di cui le società dispongono sono questi e questi utilizzano. Allora andiamo un po' alla prima domanda, la prima parte della domanda di Daniele. Io vi ricordo ancora il numero verde che è l'800 24 00 24. L'aumento di capitale, Nicolò Nunziata, adesso a prescindere da Enel, serve anche ad una sorta di tutela delle società, come una sorta di tutela delle società che si blindano da eventuali scalate? Mi sembra che il principio dell'aumento di capitale sia un po' contrario. No, beh, dipende. Cioè, dipende da chi lo sottoscrive. Per esempio, il prezzo, non so, io mi ricordo nel periodo della New Economy, i prezzi di molte società erano arrivati alle stelle e le società approfittavano di prezzi molto elevati, per esempio per incassare, e quindi quella poteva essere un tipo di considerazione, o viceversa, si vuole diluire un azionista di minoranza, anche lì si può essere un aumento. No, però se l'aumento di capitale è destinato esclusivamente magari ad una determinata tipologia di investitori, magari l'obiettivo, come l'obiezione di Daniele, può avere una giustificazione. Certo. Non è questo il caso, però mi sembra, perché è rivolto a tutti, anzi, quindi no. Va al contrario. Qui c'è un azionista di maggioranza molto forte, perché diciamo tra Stato, tra governo italiano e Cassa Depositi e Prestiti c'è più quasi al 32%. 32%, esatto. E anzi si vuole invogliare i piccoli azionisti a partecipare al capitale, quindi direi assolutamente non è un problema di blindatura, è un problema che è stata fatta un'acquisizione onerosa come quella di Endesa e quindi adesso è corretto andare a riequilibrare la struttura patrimoniale. L'adesione ad un aumento di capitale porta in futuro, per chi aderisce, appunto, svantaggi in termini di minusvalenze? Bisogna vedere se il mercato azionario sta scendendo. Continua a scendere, certo. Se andiamo a vedere, le performance a 10 anni sono negative, però quando si parla di cassettista, ovvero sì, investimento di lungo termine, lo si fa generalmente in società che hanno una certa, consistenza di flussi di cassa, quindi come dire business maturi, relativamente poco ciclici, come è abbastanza il caso delle aziende elettriche di Enel. Quindi direi che la eventuale, poi dipende da quando l'investitore è entrato, ma le eventuali performance negative vanno comunque sempre mediate dagli interessi che si sono ricevuti nel periodo, e in questo caso Enel è stata particolarmente generosa. Perché c'è la stima che viene, non la stima, anche c'è anche sul prospetto sintetico di cui io ho questa copia sotto gli occhi, che ricorda come negli ultimi anni dalla privatizzazione Enel abbia distribuito agli azionisti oltre 4 euro per azione. Antonio Tognoli, allora adesso la banca ci dice: tu hai la facoltà entro un tot di giorni di esercitare i diritti di opzione per aderire l'aumento di capitale. Se un po' di azionisti decidono di non esercitare questo diritto, i cosiddetti diritti di opzione non esercitati, che fine fanno? L'ultimo giorno di borsa utile di trattazione del diritto vengono venduti e messi all'asta. Non ci sono anche le banche che gestiscono tutta l'operazione, che si impegnano a sottoscrivere le azioni che non vengono sottoscritte al termine dell'offerta in borsa? No, ci sono le banche. Se uno non dice nulla, normalmente di fronte al suo al non dire nulla, teoricamente la banca non si fa sentire, perché dopo che la banca ha mandato la comunicazione e quant'altro e il cliente non si fa sentire, la banca li vende inoptati, ma se li tengono loro, cioè li vende al miglior offerente e li incassa direttamente. L'incassa non sicuramente l'azionista. No, perché leggevo qui per esempio nella struttura dell'offerta, sempre il prospetto di Enel appunto che ho sotto gli occhi, che Mediobanca, Banca IMI, JP Morgan, che hanno il ruolo di Joint Global Coordinator e Joint Book Runner, si impegnano a sottoscrivere le azioni che risultassero eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in borsa dei diritti inoptati per l'ammontare massimo oggetto dell'offerta al netto della quota di spettanza in via diretta e indiretta al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo mi chiedevo che cosa significasse. Che Tognoli, sì. Di fronte alla non risposta dell'azionista, quindi non si sa se l'azionista vuole comprare le azioni, quindi esercitare il suo diritto d'opzione, oppure vendere i diritti, la società, quindi in questo caso l'Enel, gli azionisti evidentemente, incastrano la vendita dei diritti in miglior offerente. Ovviamente la vendita dei migliori diritti significa che qualcuno deve sottoscrivere le azioni, in questo caso Mediobanca e JP Morgan sono quelli che sottoscriveranno le azioni a 2,48. Perfetto. Giancarlo da Brescia, l'ultima domanda me la deve fare in 30 secondi. Grazie, è molto, molto gentile, grazie per la Vada la domanda che devo chiudere. Benissimo, io sono un azionista e gradirei sapere quelle azioni che compro a 2,48, sì, le posso vendere quando, le posso negoziare quando, e se le stesse azioni hanno diritto appunto al dividendo che daranno adesso con le altre. Al 22 giugno peraltro. Ottima domanda Giancarlo, Nunziata, ce la fai in 30 secondi a rispondere? Sì, allora sulla mi coglie impreparato sul dividendo. Esatto, perché praticamente in realtà il diritto di godimento delle nuove azioni è a partire dal prossimo anno, quindi teoricamente sul nuovo pacchetto di cui si ha diritto non dovrebbe esserci lo stacco del dividendo. Esatto, sento esatto. Tognoli per una conferma. Tognoli? Sì, se il dividendo viene pagato il 22 giugno, esatto, le azioni in circolazione hanno godimento 1 gennaio 2008, quindi alle azioni rivenienti dall'aumento di capitale non spetta il dividendo. Che perché hanno diritto di godimento dal gennaio 2009. Esatto. 2009. Io vi ringrazio, non so se abbiamo fatto chiarezza, io lo spero, è un'operazione piuttosto complicata, mi rendo conto che i tempi sono stretti, abbiamo cercato di aiutarvi per quello che poteva essere anche nelle nostre possibilità. Grazie molte a Nicola Nunziata, Antonio Tognoli, che si sono spesi questa mattina anche per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Il nostro Salvadanaio termina qui, ma ritorniamo naturalmente domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.